about destruction. Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You asked me for a contribution. Well, you know, we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Alright. In diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Rock Revolution. Presenta Filippo Brancato. Che bello, ogni volta, guarda, questa presentazione mi fa venire i brividi. Mi sento un divo del cinema, oh. Non ci posso fare niente. Buonasera, bentrovati a questa nuova puntata di Rock Revolution su CRM Happy Radio. Il rock il venerdì sera vi tiene compagnia per ben 3 ore, dalle 21 a mezzanotte. Ci potete seguire anche dal nostro sito internet, ormai lo sapete abbastanza bene, www.crmpradio.it, questo è quello della nostra emittente. Se volete entrare un po' più nello specifico, www.rockrevolution.it, da lì ci guardate, ci ascoltate in streaming. Tra l'altro stasera, anche quest'oggi, abbiamo delle belle interviste da proporvi. Avremo in studio da Palermo gli Aria, questa formazione veramente molto tosta, e poi da Roma ci metteremo in collegamento con il giudizio di Eleonora e ascolteremo dei pezzi, un pezzo in particolare molto bello che abbiamo selezionato per voi, per farvi conoscere insomma questo progetto che riteniamo veramente molto valido. Saluto subito il mio co-conduttore Simone, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Tra l'altro abbiamo anche tantissime belle notizie dal mondo della musica nazionale ed internazionale che a poco andremo scoprendo durante le nostre bellissime 3 ore di programma. Infatti, saluto Gianni in regia. Gianni, buonasera caro. Buonasera alla nostra redazione Ida, che ha messo lì la nostra pagina di Facebook pronta a percepire insomma tutti i vostri commenti e messaggi che volete lasciare, semplicemente cercando Rock Revolution o CRMP Radio, insomma come preferite. Siamo online con entrambe le i due account, insomma. Va bene, siamo pronti a iniziare questa nuova puntata di Rock Revolution all'insegna della musica rock and roll, come ogni venerdì sera. Quindi buon ascolto, alzate il volume a palla, si inizia anche quest'oggi per trovare la giusta carica di adrenalina per affrontare questa settimana fredda, che è stata così fredda. Facciamo partire un bel pezzo a tappo, facciamo un bel salto indietro. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife and cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. I Che bella questa canzone. Dookie era l'album dei Green Day, stiamo parlando del 1990 più o meno. Questo è Basket Case, tra l'altro l'album era molto carino perché poi aveva dei fumetti molto graziosi disegnati proprio da Billy Joe Armstrong, il cantante frontman della band. Vi consiglio insomma di andare ad acquistare, o perlomeno insomma farvi ascoltare in qualche modo, trovare in qualche modo, diciamo così. Caro Simone, quindi le notizie di questa sera, ho visto con un occhio, insomma, si parla di AC/DC, di grandi gruppi. Sì, parleremo anche di Foo Fighters, che sono appena usciti con il loro nuovo singolo. Ancora un po' di internet con la crisi di MySpace, ancora i Muse con un prossimo nuovo album, insomma tante altre notizie che non vi voglio svelare subito, ma che scopriremo tra poco. Benissimo, quindi le notizie, poi il Rock for You questa settimana, insomma, sono quattro grandissimi successi della musica rock and roll che potete selezionare anche voi. Insomma, se avete il piacere, scriveteci durante la settimana a redazione@rockrevolution.it indicando appunto i quattro brani che gradireste ascoltare poi in radio il venerdì sera all'interno di Rock Revolution in diretta. Poi ci metteremo in collegamento, tra l'altro, anche con Roma, e ho una notizia poi da fare alla band che ospiteremo. Tra l'altro, questa è una chicca. Vabbè, chiudo il discorso lì perché andiamo ad ascoltare questa bellissima canzone, Un salto indietro nel tempo, un altro grande successo della musica rock and roll. Loro sono i Metallica con The Unforgiven. Man. Che bella questa canzone, ragazzi, mamma mia. Fa venire quasi i brividi. Allora, c'è una notizia che io dobbiamo mettere alla prova, caro Simone, nella lettura, perché è veramente molto, molto impegnativa. Parliamo di Red Hot Chili Peppers con il titolo del nuovo album, o perlomeno quello che sembra essere il titolo del prossimo album. E che io mi auguro non sia mai, perché ve lo vado a leggere, potrebbe essere questo. Dr. Johnny Skins Disproportionately Rambunctious Polar Express Machine Head. Mamma mia, è un occhiolo di lingua, impressionante. A nome di tutti gli speaker mondiali chiedo cortesemente di non sceglierlo come titolo. Comunque, questo potrebbe essere, ahimè, il titolo del nuovo album dei Red Hot Chili Peppers, e a rilevarlo è stata la stessa band che poi così ha spiegato la scelta di questo nome alquanto bizzarro. Il titolo è un'idea di un nostro amico che, dopo aver preso un acido, chissà come mai, si è visto sul palco suonare davanti a folle di fan per tutto l'universo. Hai capito? Il brano di punta di questi concerti era appunto Dr. Johnny, che comunque non è ancora stato confermato come titolo, ma che potrebbe esserlo quasi sicuramente. Dottor Johnny, noi Johnny conosciamo Johnny Stecchino, che è bello. Ma quanto costano le banane a Palermo? Ti ricordi? A te, a tutta la tua famiglia. Mamma mia, veramente. Vabbè, andiamo avanti con la musica. Prima di fare una piccola pausa pubblicitaria, con un pezzo degli Yellow Card, torniamo al punk californiano, ecco, queste temperature un po' più calde, queste belle chitarrine sottofondo, questi riff magnetici, ipnotici. Quindi gli Yellow Card, questo è Rock Revolution su CRMP Radio. Questo è un brano del 92, si intitola Inside Out. Buon ascolto, rock and roll! guess it's called a falling out. But every day I'm learning how to make it through this life I'm in. Even if I wanted to, I don't think that I'd get to you. There's nothing I can say to you to make you feel alive again. So don't just say goodbye to me. Just turn your back away and leave. And if you're lucky, I will be your last regret, your only friend. In diretta su CRM Happy Radio, Rock Revolution, il programma rock dedicato agli artisti emergenti. The heart is a blue. La mitica voce di Bono, questa figura insomma stramiliardaria, arrivata a questo punto della sua carriera, insomma possiamo dirlo che è diventato uno stramiliardario a ville sparse nel mondo, beato lui. Però come pochi impegnato anche nel sociale, dobbiamo dirlo, insomma, anche da apprezzare da questo punto di vista. Infatti, comunque era Beautiful Day degli U2, come avete inteso in questi ultimi minuti. Andiamo a parlare adesso di una bella notizia che riguarda i Muse, molto breve, così poi subito andiamo al prossimo pezzo, che è un'altra band inglese molto forte. Sì, in una recente intervista Matt Bellamy, che è il frontman dei Muse, ha parlato dei grandi progetti futuri della band e appunto ha rilasciato queste dichiarazioni: stiamo lavorando su del nuovo materiale, anche se al momento è ancora tutto allo stato embrionale. Vogliamo che entro l'anno si inizino le registrazioni, insomma siamo tutti in grande attesa. In attesa, poi non c'è, c'è anche da aspettarsi, insomma, un eventuale show improvviso, perché loro sono amanti di questa cosa, quindi intanto organizzano degli show imprevisti in delle location altamente segrete, forse anche sullo spazio, come ci avevano preannunciato qualche tempo fa, insomma. Infatti vabbè, sono forse un po' difficile effettivamente fare questa cosa, però. Due brani in sequenza, Coldplay, June Spirits. Questo è CRMP Radio in diretta, Rock Revolution, anche questa settimana. Se volete, chattate con noi, siamo online con Facebook, sia con il nostro che con quello della radio, insomma. So I look in your direction, but you pay me no attention to you. I know you don't listen to me, 'cause you say you see straight through me, don't you? But on and on, from the moment I wake to the moment I sleep, I'll be there by your side. Stop me. And you know how much I need you, but you never even see me. Il venerdì su CRM Happy Radio è Rock Revolution. Volevo salutare tutti quanti gli amici, ci stanno seguendo anche in webcam, sappiamo che sono tanti, poi magari leggeremo anche qualche nome di qualche città collegata al nostro sito. Loro erano i Coldplay con June Spirits in questa sequenza di due brani senza interruzioni. E a proposito di interruzioni, credo sia proprio il momento di fare una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo con i news con Time is Running Out. A dopo! Hai una band? Vuoi far conoscere la tua musica in radio? Visita il sito www.rockrevolution.it. A long ass fucking time ago in a town called Kickapoo, they lived a humble family, religious through and through. But yay, there was a black sheep, and he knew just what to do. His name was Young JB, and he refused to step in line. A vision he did see of fucking rocking all the time. He wrote a tasty jam, and all the planets did align. Oh, the dragon's balls were blazing as I stepped into his cave. Then I sliced his fucking cockles with a long and shiny blade. 'Twas I who fucked the dragon, fuck a licing, fuck a loo. And if you try to fuck with me, then I shall fuck you too. Gotta get it on in the party zone. I got to shoot a load in the party zone. Gotta lick a toad in the party zone. get showed in the party zone. Secret doors you must unlock. Escape your father's clutches in this oppressive neighborhood. On a journey you must go to find the land of Hollywood. In the city of fallen angels, where the ocean meets the sand, you will form a strong alliance and the world's most awesome brand. To find your fame and fortune, through the valley you must walk. King Kickapoo with hunger in his heart, and he journeyed far and wide to find the secrets of his art. But in the end he knew that he would find his counterpart. Un sacco di bei film, John Black, The School of Rock, poi insomma ce ne sono anche tanti altri molto carini che vi consiglio assolutamente di ascoltare. Questa era Chinese D con Kickapoo, che poi è il suo nickname, diciamo così, il suo nome d'arte per John Black. Decisamente rockettaro, ecco, dobbiamo dirlo anche nel video che poi avrete modo di guardare su YouTube, su internet. Molto rockettaro. Va bene, facciamo una piccola pausa o facciamo anche un altro pezzo? Non mi ricordo, facciamo una pausa? Va bene, adesso facciamo una pausa e poi torniamo in diretta su CRM con Rock Revolution. A dopo. And this is the best thing that could have happened. Any longer and I wouldn't have made contradiction. I wanna play the game, I want the friction. Some modest fame and fortune is was gonna come to me early. Ooh-hoo-hoo. I put two loves in my life. Ooh-hoo-hoo. And I'm dying at 90. Breaking down, but no one there to save you. No. Loro sono i Simple Plan con Welcome to My Life. 22:13, quest'oggi vi ritardiamo qualche minutino con il Rock for You, però poi subito dopo ci facciamo perdonare con questa bella intervista che abbiamo preparato con gli Aria da Palermo, per ascoltare anche dal vivo dei pezzi davvero fantastici. Quindi adesso Rock for You, 4 successi rock in sequenza senza interruzioni, e poi in diretta Live Unplugged per Rock Revolution, gli Aria da Palermo. A dopo. Tutti i venerdì dalle 21 su CRM Happy Radio, Rock Revolution, il programma rock di CRM. Grandi successi del passato e nuove proposte musicali presentati da Filippo Brancato. Man didn't know about i 4 successi rock più belli di tutti i tempi, in sequenza mixata. For You, il miglior rock in tutti i tempi, in sequenza mixata. qualsiasi rock in sequenza senza interruzioni. E questo era il Rock for You, 4 successi rock in sequenza, senza interruzioni, anche questa settimana, grandi successi rock and roll, senza interruzioni, è bello, ogni tanto, insomma, la pubblicità ci deve essere, perché purtroppo una radio commerciale, come tante anche altre radio e altre televisioni, ne ha di bisogno, però, insomma, quando non c'è interruzione è anche meglio. Va bene, siamo pronti anche questa settimana per iniziare l'intervista di quest'oggi. Come sapete, ogni settimana Rock Revolution ospita delle band per parlare dei loro progetti musicali, e quindi io direi di iniziare con la jingle di apertura ufficiale delle interviste della settimana per poter introdurre la band di quest'oggi. Ladies and gentlemen, Rock Revolution ha il piacere di presentare gli ospiti della settimana. Sì, effettivamente sembra un po' una musica da circo. Lo è, effettivamente. Bene, abbiamo questa sera il piacere di avere con noi, direttamente live from Palermo City, gli Aria. Applauso. Ah, che bello, eh? Standing ovation ci vuole per scaldare subito gli animi e entrare subito nella situazione. Buonasera ragazzi, benvenuti a Rock Revolution. Grazie, buonasera a voi, grazie per essere ospitato. Allora, abbiamo, leggo la formazione velocemente, abbiamo Maurilio al basso e le voci, poi Vincenzo alla batteria, Pedro chitarra e voce e Ignazio alla voce e chitarra. Benvenuti a Rock Revolution nuovamente, parliamo di questo progetto degli Aria. Intanto volevo subito, prima di iniziare, ricordare il vostro indirizzo MySpace, che è www.myspace.com/ariapalermo. Allora, voi avete una bella carriera musicale, avete nel 2004 prodotto un CD demo dal titolo Metropolitan, nel 2006 un'altra demo Deviazioni, nel 2009 altre nuove registrazioni, nel 2010 scopriremo adesso che cosa è venuto lo scorso anno, oltre a, chiaramente, ai vari appuntamenti dal vivo e le partecipazioni a vari contest che avete fatto durante questi anni. Parliamo come sempre dalle origini, partiamo quindi con le origini degli Aria, parlateci un po' di questo progetto. Ma gli Aria in pratica sono nati in spiaggia, una notte con altri due personaggi che adesso non ci sono più perché sono passati quasi 15 anni da allora. Si decise di fare una formazione, di suonare, non si sa bene cosa, si decise di suonare, gli effetti dell'alcol o di chissà che cosa, decise di suonare. Chi aveva la batteria ha deciso la sua batteria, chi aveva la chitarra ha deciso per la chitarra, io non avevo nessuna esperienza e mi dice tu suonerai il basso. Poi mi hanno fatto anche cantare, quindi. Ah, bella come inizio, insomma, organizzato. E poi, sì, poi negli anni ho avuto la fortuna di conoscere questi picciottazzi, che con la musica da circo ci stanno tantissimo. Senti, ma perché Aria? Aria. Cos'è, una carenza di ossigeno? Aria perché comunque il nostro suonare non corrisponde a un dare avere, è un'esigenza soprattutto nostra, quindi chiamala come vuoi, egoismo, automasturbazione, però è una prima nostra esigenza e quindi ci serve per sopravvivere, e quindi aria. Come per tutti gli umani, insomma. Esatto. L'aria che probabilmente corrisponde anche alla musica in questo caso, no? Quindi il bisogno della musica, di fare musica, di ascoltare musica. Di esprimersi, in qualche maniera, poi ognuno sceglie la sua via per esprimersi. Certo, parliamo di vie, di strade, no? Ognuno di voi chiaramente avrà un background musicale diverso, forse, o anche simile. Quali sono state le vostre influenze musicali? Cioè, cosa ascoltavate a 14 anni quando compravate CD o i vinili? Perché, insomma, penso siamo più o meno coetanei, ai tempi c'erano ancora i vinili. Cosa compravate, cosa ascoltavate? Ma io personalmente partivo, che so, i Cure, Depeche Mode, per quanto riguarda la musica, sì, che poteva interessare di più. Poi mi sono avvicinato un po' ascoltando anche un po' il rock, il metal, crescendo, ma insomma. Più o meno quel genere. Invece sì. gli altri componenti della band, batterista. Bene, avvicinati un pochettino, siamo un po' distanti, gli amici in webcam che ci seguono, li salutiamo, tra l'altro colgo l'occasione. Ciao ragazzi. Sentiamo un po' il parere di tutta quanta la band. Il batterista cosa ascoltava? Iron Maiden, sì, Pantera. La faccia ce l'ha, Iron Maiden, Pantera, Therapy, che è attualmente il mio gruppo preferito, irlandese, rock in generale. Stasera sei venuta solo con un rullante. Con un rullante che oltretutto suonerò, non lo so come. Sorpresa. È appollaiato, sembra un svoltoio. Tra l'altro, questa è la vostra, diciamo, forse prima esibizione in versione acustica. Ma parlavamo prima off air di questo fatto qui. Sì, noi non siamo buoni neanche per suonare in spiaggia con le chitarre, no. Più o meno. Ci incontriamo solo in elettrico. È un esperimento che stiamo facendo in anteprima per Rock Revolution. Una brutalità via radio. Perfetto. Sentite, ma cos'è cambiato dall'inizio della vostra formazione ad oggi nella vostra musica o nel vostro modo di esprimervi? C'è stata un'evoluzione oppure avete iniziato con quel genere musicale e siete andati avanti ad oltranza con quel genere? Allora, le panze sono cambiate. Adesso c'è più panza. Vabbè, con l'età, insomma, sì. Si sa che un pochettino. No, siamo partiti dal punk hardcore quando ci siamo conosciuti, poi piano piano abbiamo cominciato anche a suonare. In questo ci è aiutato molto Ignazio. E quindi cosa facevate? Facevate, vabbè, punk, Ramones, no? Sì, sì. Quale facevate dei Ramones? Per la canzone preferita dei Ramones? No. Non li facevate? Sempre mai cover. Quasi cover quasi mai fatto. Sempre pezzi nostri. E questa è una cosa abbastanza atipica, perché comunque molte band quando iniziano, si propongono con la musica cover, fanno i pezzi cover. 15 anni fa su quella spiaggia si disse che dovevano fare pezzi nostri. E dopo 15 anni. Una scelta, una scelta di vita, di musica che rispettiamo assolutamente. Sentite, come vi piace venga definita la vostra musica, visto che di essa parliamo? Ci sono delle band italiane alle quali vi sentite più vicini musicalmente parlando, per dare un'idea anche agli ascoltatori della radio che sono abituati, sapete, a ascoltare i big, tra virgolette, della musica internazionale? Fare il paragone tra noi e una band, insomma, è abbastanza umiliante, penso, per la band, però non dire così, non ti buttare giù in questo modo. Posso dire che comunque Marlene Kanz, per quanto riguarda me, gli After Hours, Teatro degli Orrori, cioè la musica italiana c'è in Italia, cioè esiste la buona musica italiana, i Ministri, li ho visti fino a poco tempo fa, i Candelai, la musica italiana in Italia esiste. Però non va a Sanremo, non va al Festival Bar, perché nuoce la salute. Beh, forse è anche un aspetto positivo questo, secondo me. Probabilmente. Allora ascoltiamo il primo pezzo registrato in studio dagli Aria da Palermo questa sera, Rock Revolution con noi. Suoneranno anche dal vivo. Nel frattempo ascoltiamo Vuoti a Perdere. Ne parleremo poi con loro di questo pezzo molto forte. Il tutto in diretta su CRM Radio per quest'altro venerdì sera, all'insegna della musica inedita del rock and roll. Buon ascolto. We'll be right back. Yaria per Rock Revolution. Questa sera abbiamo questo bel gruppo da Palermo e si parlava insomma un pochettino anche dell'aspetto che riguarda poi la possibilità di suonare in giro per i locali, no? E c'è effettivamente una difficoltà. Anche voi esprimete questo giudizio negativo riguardo le possibilità per le band emergenti, le band che fanno soprattutto musica inedita in giro per la Sicilia. Beh, l'inedito comunque è... Allora, innanzitutto la gente se esce vuole canticchiare, vuole... quindi è anche normale che l'inedito è più ostico all'ascolto. Però anche proporlo a proprietari di locali e cose, se ti chiedono, ti dicono quanti coperti fai. In pratica tu dici, tu ci vai, ah, io vorrei fare della musica, quanti coperti fai? Dici, ma no, io farei il rock piuttosto che il reggae. Quanta gente porti? Ma è pure giusto così, perché fondamentalmente, quindi fondamentalmente sono baristi, anche se tu porti avanti un discorso, sono commercianti, quindi commercio, cioè stava cadendo. Sembrava mio nonno quando una grazie. Bellissima scena, l'applauso da parte, tra l'altro stato uno scoop. Sì, effettivamente c'è questo problema, insomma, che sappiamo, sì, è abbastanza portare frequente. Portare avanti un discorso non è facile, non, poi la Sicilia è un acquario, cioè può essere il pesce più bello dell'acquario, ma sempre là rimani. Quindi non è facile, che siamo veramente staccati dal resto d'Italia, proprio per le cose pratiche, spostamenti, andare a suonare nel locale, siamo abbastanza... Però è anche vero, io devo dire anche che ci sono delle band attuali, insomma recenti, e della nostra provincia, che comunque in qualche modo sono riuscite un po' a uscire. Parliamo ad esempio dei Pan del Diavolo, che hanno avuto un'ottima recensione su Rolling Stones, stanno facendo un giro nelle Fnac e nei vari locali in giro per l'Italia. Parliamo ancora dei Crash, una band di Castelbuono, non so se la conoscete, che ha avuto un'ottima proposta da un'etichetta californiana. Ma per produrre dei dischi, una percentuale piuttosto in percentuale che... senza dubbio siamo un po'... quanti gruppi di Milano, di Roma, di Bologna, di Firenze, cioè, è chiaro, percentuale... è chiaro. Però se parliamo anche in riferimento a band di inglesi o di altre nazioni, abbassiamo ancora la percentuale, perché è vero che in Italia c'è una percentuale soprattutto al nord, però se parliamo a livello internazionale ci sono tantissime realtà internazionali che vengono fuori molto più facilmente rispetto alle certo, nostre. Per noi è anche condizionante a livello internazionale anche il discorso della lingua. Noi facciamo musica comunque italiana, e quindi trovare un contratto con una band, con una casa estera, è più difficile. Ci sono gruppi bravissimi che fanno musica di genere, che so, chi fa il trash, chi fa il nu metal, che magari riesce ad avere dei contratti, delle etichette specializzate, e quindi ha più facilità. Anche perché se ti appoggi a un genere, già è più facile. Cioè, dici, io faccio trash death metal, rap, reggae, cioè già comunque è un indizio. Quando tu dici rock è talmente ampio, vario, che non... Certo. Assolutamente, c'è l'hard rock, l'indie rock. No, vai a finire anche al folk. Cioè, non... Ecco, voi pensate di identificarvi in una nicchia specifica o rock in generale? In una nicchia sempre, fondamentalmente. No, vabbè, l'underground italiano del rock, cioè i gruppi, anche se sono diversi come tipologia di musica, come sonorità, però sono quello, è l'underground italiano, gli After Hours, i Marrone Kunz, questi gruppi, i CCCP questo genere di erano gli Itfiba anche. Questo genere erano effettivamente. Poi Firino, no? Comunque. Infatti, vabbè, adesso hanno ripreso con questo nuovo disco che sta venendo fuori, che è abbastanza carino, anche se torna un po' alle origini. Non so se avete avuto l'opportunità di ascoltarlo, però insomma si parla di un ritorno alle origini per l'Litfiba con il vecchio sound stile anni 90, diciamo così. Allora, ragazzi, siamo pronti per andare ad ascoltare il primo brano in versione acustica di questa sera. Cosa ci fate ascoltare? Allora, abbiamo portato un pezzo di chiesa. Come di chiesa? Sì, un pezzo di chiesa, un pezzo religioso. Si intitola Chi ti ha detto che? Chi ti ha detto che? Di cosa parla velocemente? Chi ti ha detto che? Parla sostanzialmente di tante sicurezze che ci danno per scontate e poi ci fanno fare o pensare cose che comunque non sono reali o comunque lasciano sempre uno spazio al dubbio. Bene, allora siamo proprio curiosi di ascoltare questo pezzo degli Aria, prima volta in versione acustica per Rock Revolution, in diretta. Buon ascolto. Canzone di chiesa, Chi ti ha detto che? Chi ti ha detto che? caldo come se nascessi ora. Oh, sono solo morto e sono qui da più di un'ora. Ricordo il mio respiro e tutto quel che ambivo. Parlare a Dio come un vecchio amico. Chi ti ha detto che devi vivere per me? Chi ti ha detto che vivo nelle chiese? Che chi ti ha detto che vivo di preghiere? Che chi ti ha detto che devi uccidere per me? Calmo, calmo, calmo come dopo una vittoria. O sono solo stanco e ho avuto un vuoto di memoria. Ricordo il mio respiro. Parlare a Dio come un vecchio amico. Chi ti ha detto che devi vivere per me? Chi ti ha detto che vivo nelle chiese? Che chi ti ha detto che devi uccidere per me? Chi ti ha detto che vivo di preghiere? Dobbiamo fare un applauso anche ai nostri ragazzi. Tra l'altro abbiamo questa sera in studio i ragazzi del primo corso di formazione radiofonica di CRMP Radio. Poi magari li sentiamo anche in voce e li salutiamo. Hanno fatto il coro questa sera per gli Aria. Siete contenti? Sì. Bene, allora andiamo avanti con le domande di questa sera. Abbiamo un bel po' di domande da farvi per scrutare bene il vostro progetto musicale. Parliamo di ispirazioni. Cos'è successo? È caduto il plettro dentro la cassa armonica della chitarra. Questo è un tipico per un chitarrista. La cosa divertente è poi tirarlo fuori. Ma lui è attivo, cioè riesce a perdere 3-4 plettri. Sì, sì, sì. Dovresti farti, sai, ci sono le aste del microfono con il portaplettri. Dovresti secondo me prendere in considerazione questa possibilità. Anche a me capita spesso. E infatti ho un bel set di plettri dentro la cassa armonica, che funge anche da sonaglio e rullante per la chitarra. Io mi porto le dita, faccio prima, così non le perdo. Infatti, sentite, parliamo un po' della vostra, del vostro progetto musicale dal punto di vista delle ispirazioni. Cioè, quali sono state le idee cardine che vi hanno portate, che vi hanno portato al sound attuale? Le idee cardine che ci hanno portato al sound attuale. Tu hai studiato, io no. Allora, dobbiamo tra l'altro salutare la nostra redazione che prepara settimanalmente le interviste. Ida, questa è bella. Allora, innanzitutto non c'è un progetto, come avevo detto prima, è non solo una nostra esigenza. Poi progetti, beh, più che altro si muove la rabbia. È la rabbia che ti fa scrivere, che ti fa suonare l'inedito. Un po' la base del rock, sì, insomma, sì, rock sì. È anche denuncia. Sì, se fai il toco, vai a fare le cover in giro, sei bravo e riproduci. Ma quando fai inediti, se non ti muovi per rabbia, ti muovi per amore. Due sono le cose. Noi certo. Ci muoviamo per rabbia, fondamentalmente. Per rabbia, vabbè. L'amore invece no. A casa. A casa. Sentite, quanto contano per voi i testi, le parole, insomma, rispetto alla musica? Parlateci della vostra dinamica compositiva. Ma cioè, nasce prima un testo, nasce prima una canzone, una musica? È una monarchia assoluta. C'è il bassista cantante che scrive i testi. Che saresti tu? Sì, gli altri che insomma più altro non uniscono. Vabbè, dici. E poi la musica. Per la serie, sapete, c'ho un pezzo in testa carino, no, e inizio a fare il giro di basso. No, difficilmente. Improvvisiamo al box e poi diciamo fai un testo. Sì, quando la musica. Parliamo è finita, di. Sì, quando è finita la musica, sì, più o meno le linee base. Poi io, a secondo delle mie pippe mentali, comincio a buttare giù. Qual è la situazione ideale per scrivere una canzone? La rabbia, non so, ti fanno una multa. No, non è rabbia così immediata. Allora, non mi viene mai. Cioè, se mi metto col basso tu devi a casa. Che lui è un filosofo da taverna. Ecco. Quindi, essendo filosofo da taverna, lui è, diciamo, al culmine della sua serata in taverna. Poi sviluppa un discorso che magari ha potuto prendere con qualcuno, o magari, che so, una sua considerazione della sera. Qualsiasi cosa gli passa in quel momento per la testa, oltre, diciamo, al gradatino. Vabbè, sì, questo insomma è un po' il sottinteso come cosa. Sentite, arrivano delle email che salutano gli Aria, sono fortissimi, spero di poterli ascoltare ancora magari la prossima volta in TV. Strepitosi. Complimenti. Settimana prossima dovremmo suonare da Peppino a Piazza Venezia. Ecco, volevo parlare assieme a voi proprio di Peppino impastato in questo caso, però visto che c'è comunque un pezzo che voi dedicate a Radio Out, sì. Che è una nostra un'emittente che è nostra cugina, parliamo un po' di questo progetto, di questo pezzo che avete dedicato a Radio Out, che tra l'altro è una delle prime radio assieme alla nostra che negli ultimi anni 70 hanno iniziato a trasmettere con Peppino impastato, questa figura che ha fatto un po' la storia riguardante la denuncia delle situazioni mafiose in Sicilia. Poi dopo la sua morte comunque questa realtà ha continuato a trasmettere. Come mai questo desiderio di parlare di Radio Out? Allora, parlare di Radio Out, sarò sincero, io non conoscevo molto la storia di Peppino Impastato. Come tutti ho visto il film, sono documentato e ho avuto l'ennesima conferma che è una persona normale, una persona che ride, che scherza, anche denunciando le cose ma senza premere sull'acceleratore, comunque dà fastidio, perché la normalità da noi dà fastidio. E quindi da lì è scattata appunto l'ignoranza e ho cominciato a scrivere il pezzo. Certo, no, tra l'altro è un tema molto anzi importante. Volevamo ricordare, cioè volevamo ringraziare Casa Memoria Impastato che ci ha fatto suonare a Cinisi. Grazie. La salutiamo e diamo il massimo supporto da noi tutti di Rock Revolution alla famiglia Impastato e Radio Out, insomma, che si battono sempre per dei valori importantissimi, fondamentali per la nostra esistenza da siculi, diciamo così, no? C'è da dire una cosa, che oggi nella nostra società, che è dominata dai mezzi televisivi, no? I ragazzi si formano quasi esclusivamente sul mezzo televisivo. Forse la radio può essere, la radio anche trasmessa via web, può essere una risorsa, diciamo, anche per una conciocultura, per una situazione diversa anche nel nostro paese. Quindi viva la radio. Viva la radio, viva le radio. Viva le radio libere. Viva le radio libere. CRM è una radio libera, per fortuna, senza nessuna influenza politica. Noi siamo contenti di questo. Insomma, ci piace parlare liberamente di tutto. Facciamo tanti auguri sempre a Radio Out, che è un'emittente libera che da tanti anni si batte per la mafia, che è una gran porcheria, una schifezza che dobbiamo assolutamente cancellare dalla nostra storia. Facciamo adesso il prossimo pezzo degli Aria, che è un pezzo registrato in studio. Si intitola proprio Radio Out. Buon ascolto. Chi sarà il buono? Ma sono tutti buoni! E chi sarà il cattivo? Ma il cattivo tra loro non esiste, il cattivo è sempre al di fuori di loro. Chi sarà allora il brutto? I brutti siamo noi, i brutti siamo noi! Magneti che si scagliarono contro la menzogna. brutti siamo noi, i brutti siamo Radio Out, sono gli Aria da Palermo, questa sera ospiti di Rock Revolution per queste belle interviste, per conoscere questa band molto forte che abbiamo avuto il piacere di presentarvi. Parliamo ancora con loro di quelli che sono i temi che più, insomma, vi piace affrontare nei vostri testi. Di cosa si parla? Radio Out, insomma, abbiamo avuto un accenno di quello che comunque è un aspetto importante dal punto di vista sociale. Di altro? I temi che vengono affrontati sono da quello che fondamentalmente è quello che ti succede attorno. Tu stai là, tipo spugna, però cioè, nel mio caso particolare, che so, essendo un demente perfetto, cioè io, una persona dice una frase, allora dopo 2 mesi quella frase io me la ricordo e la scrivo, però non mi ricordo dove abito, cioè è vero, cioè, non mi ricordo le stronzate paurose per cose mesi. Importanti invece, no poi un taccuino, un'agenda, no, poi quando mi seguo scrivo e comincio a raccogliere tutti i vari pizzini che ho raccolto. I pizzini no penso. Sentite, parlateci un po' del vostro ultimo lavoro, di cosa parla, come si intitola, quanti brani, eccetera, eccetera. L'ultima, anzi, a proposito, qua c'è... Oh, che bello, grazie. Lo facciamo vedere anche in webcam. Questo è il nuovo disco degli Aria. Ecco, fatto. Sono 16 brani. Moca Vieno Tempo. Moca Vieno Tempo. Come mai? Cos'è, napoletano, penso, sì. No? Chi è napoletano di voi? Mio nonno. Ah, e quindi tu sempre hai sempre la monarchia assoluta di cui sopra. Il regno delle due Sicilie. Ecco, ci sono dei pezzi, insomma, molto belli, come Fai, Deviazioni, Vuoti a Perdere, O Talè, che poi assomiglia anche un po' al siciliano. Talè, Talia, no, guarda. No, O Talè è siciliano. Ah, no. Ah, perfetto. O Talè, ecco, dicevo, O Talè una certa... è un pezzo brevissimo, è una storia vera che è successa a me, a Bice, quando ci hanno... Poi, insomma, ascoltando, poi... È in dialetto. Poi c'è bello, c'è Vice Song. chi ti ha detto che la mia visione distorta delle cose? Per chi, per cosa? Sole Nero, che tra l'altro è anche una canzone dei Litfiba. Ma noi l'abbiamo fatta prima. Perfetto. E saluti da Palermo a conclusione, la cartolina, no? Saluti da Palermo, assolutamente. Oh, bene. Da ascoltare. Dove possiamo trovare questo disco, questi brani? Fondamentalmente sul MySpace o su Facebook, domandate, io ve li porto a casa. Perfetto. Non è un problema. Stupendo. Allora, MySpace, che ricordiamo, è www.myspace.com/Aria Palermo, da lì trovate tutti quanti i contatti per mettervi, scusate il gioco di parole, in contatto con gli Aria. Pensate che la vostra musica potrebbe subire un'evoluzione in futuro? Non so, pensate di fare death metal, speed metal, oppure pensate di continuare in questo modo? Una polca. Una polca. Pensiamo di peggiorare tantissimo, ma non fino a questo punto. Fino a una polca, non la volta. No, chiaramente, sempre con tanto di cappello per il death metal, speed metal, che comunque è un genere musicale che molti amano, che molti suonano, però voi chiaramente preferite, insomma, suonare il rock. Che poi ascolto, perché a noi piace suonare il pop metal. Il pop metal è una nuova definizione di musica metal pop. Ce ne volete dare un assaggio questa sera oppure no, ma facciamo meglio. Vabbè, allora abbiamo un prossimo pezzo dal vivo, gli Aria da Palermo. Cosa ci avete portato di bello? Cosa ascoltiamo? Adesso proviamo a fare Dorian. Mm-hmm. Che è un pezzo che facciamo comunque sempre. Ha a che fare con Dorian Gray? Esattamente, sì. Il pezzo è stato scritto da quell'omino silenzioso là dietro. Questo, ecco, è che tra l'altro uno dei pochi testi che scrive quello là. Ecco, volevamo fare far fare un'apparizione all'altro chitarrista, che è un po' escluso in questo momento, quindi lo pregherei di posizionarsi all'interno della nostra webcam per salutare gli amici ascoltatori che ci seguono in web streaming da internet e anche in video, oltre che in audio, quindi salutiamo un po' tutti quanti, sappiamo che sono tanti. Tra l'altro so che abbiamo avuto alcune difficoltà nel metterci in contatto con la band da Roma, però provvederemo durante la trasmissione a riprovare, insomma, a metterci in collegamento per parlare di questa band che ospiteremo. Chiusa parentesi, ascoltiamo quindi gli Aria con questo pezzo che si intitola Dorian. Buon ascolto, Rock Revolution Unplugged, gli Aria da Palermo, scusate. Prego maestro, dai il 4. Thank you. particolari che ti catturano su vernice scura che ti tira in fondo. Metamorfosi ti confermano più di prima ora che sento gli anni dentro. Non so cosa darei per portarti via con me. Non so cosa direi per volare via da qui, da qui. Poi cosa resterà di questa vita che non vive la sua età? Poi cosa resterà se tutto quel che attorno sta morendo già? Metamorfosi ti confermano più di prima ora che non so cosa darei per portarti via con me. Non so cosa direi per volare via da qui. Poi cosa resterà di questa vita che non vive la sua età? Poi cosa resterà se tutto quel che attorno sta morendo già? Un polmone. Che bello, eh? Che bello, la musica dal vivo, la musica inedita. Questa sera Rock Revolution, come ogni venerdì sera, vi proponiamo insomma musica inedita, la musica più bella siciliana, ma non solo. In esclusiva, che bello dire in esclusiva, sembra qualcosa di esclusivo. Allora, parliamo un po' della musica in generale. Cosa pensate di non cambiare in futuro? Cioè del vostro sound. Ci sono chiaramente dei punti cardine che vi portano a fare questo tipo di musica. Cosa non cambierete mai? Cioè, ci sarà un'evoluzione magari nel tempo, chiaramente, è probabilmente inevitabile. Però, quali sono quelle cose che voi pensate di non voler cambiare mai? Ma, la nostra prova settimanale. La nostra prova da 10 anni fissa settimanale. Può succedere realmente di tutto. Noi proviamo, non siamo costanti come i cinesi, una volta alla settimana, ma andiamo. Sa da fa. Sì. E poi il sound può anche cambiare, perché no? Sentite, io basta sto che non guardando... cambiano ste facce, poi per il resto io sono contento io sto così. Sto guardando insomma la copertina del vostro nuovo album, Mocca Vieno Tempo, scusate la mia pronuncia penosa. Una agli saggisti gliela diamo. Saggisti, questa diamo, è vostra! Una la diamo agli saggisti. Poi ve la duplicate chiaramente, la piratate serenamente. Oh, allora, questo è il momento, mi se pare fa, di capire, fa. No? Questo è il momento di fare che cosa? Non so, Mocca Vieno Tempo. Cioè, cosa vorreste fare? Qui c'è un po' di gente, no? Mi sembra un po' da rivoluzione. Mocca Vieno Tempo, io penso torniamo che un po' siamo arrivati. Siamo arrivati alla fine. Non c'è più tempo, non si può più aspettare. Cioè, o stiamo lì e aspettiamo di morire serenamente davanti al alla televisione, sulla poltrona, e vedere gli altri che se ne vanno un po' così. Un po' giù. Zuzzurellando. Sì, se ne vanno un po' giù e aspettare fino a che non tocca a noi. Così. Che cosa tocca a noi? Come gli animali da macello. Ti mettono davanti una televisione. E quindi cosa bisogna fare per evitare che questa sorte ingrata... Rioccupare le strade, scendere in strada, parlare con le persone, stare nelle piazze, parlare di più, stare più in giro. Invece certo. Di stare... Chiusi a casa con il grande fratello, porcata di questo. D'accordo, genere. D'accordo. Sono degli altri messaggi che stavo leggendo. Da Cristina, da Pistoia, dice: saluta gli Aria e il suo cognatino Vicky. Grazie, contentamente. Ciao, salutiamo. Cristina! Ciao, Cristina! Da Pistoia, salutiamo anche lei che ci sta ascoltando in streaming e vi sta anche guardando in webcam. Ci fa molto piacere. Sentite, ultima domanda: quali emozioni vi proponete di risvegliare nell'ascoltatore con i vostri pezzi? Curiosità, fondamentalmente curiosità. Non credo che nessuno di noi quattro abbia la presunzione di pensare di poter risvegliare chissà che cosa. Io ho un tempo lussuria, però. Ma un tema molto tempo fa lussuria. A me è rimasta curiosità. Curiosità, sì, curiosità. Sì, curiosità. Va bene, noi siamo curiosi di ascoltare gli Aria con i prossimi lavori. Dall'altra parte ci fanno anche il senso con il ring, sai, nei campi da battaglia dei boxer. Passa la donna con il come bikini, si chiama? Però. No, non sono in bikini, c'è freddo stasera. Guarda, c'è un ombelico. No, vabbè, stiamo scherzando, va bene. Allora, noi siamo veramente molto contenti di avervi avuto questa sera con noi in studio. Ci auguriamo, insomma, che il vostro progetto musicale possa prendere il volo quanto prima. Le sonorità, gli elementi, la base, c'è tutta quanta alla grande. E quindi speriamo di incontrarci presto con delle belle novità per gli Aria. Grazie a te. Grazie a voi, grazie ragazzi. Grazie a tutti quanti voi. Ringraziamo gli Aria da Palermo, un bel applauso per loro. Rock Revolution adesso continua. Visitate il loro MySpace www.myspace.com Aria Palermo per andare ad ascoltare la loro musica e eventualmente anche richiedere qualche pezzo per Palermo, a Piazza Venezia. Ecco, venerdì a Palermo, Piazza Venezia. A Palermo, se volete ascoltare dal vivo, li potete ascoltare a Piazza Venezia a Palermo. Quando esattamente? Venerdì, il prossimo venerdì, va bene. Allora, ascoltate Rock Revolution e poi andate a guardare il concerto degli Aria. Perfetto. Facciamo pubblicità, facciamo una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in diretta su CRM con Rock Revolution. A dopo. Ogni venerdì alle 21, in diretta su CRM Happy Radio, Rock Revolution, il programma rock dedicato agli artisti emergenti. Cost me a fun old time. il grande rock è su CRM Happy Radio con Rock Revolution. Diamoci sotto come dei dannati. Sulla nostra radio visita il sito www.rockrevolution.it. Che bello sto pezzo, eh? Marilyn Manson. Finisce così, proprio con questo, con questo suono un po'... Che è successo? Perché ridi dall'altra parte, Gianni? Boh, non ho capito cosa stavi dicendo. Vabbè, siamo andati in diretta. Vabbè, il bello della diretta su Rock Revolution. Allora, volevo salutare gli amici che sono qui presenti, oltre agli altri che sono andati via, e ringraziamo nuovamente per essere stati con noi gli amici che invece sono in, in parte integrante della radio, e salutiamo anche il ristorante Tivitti che ci ha aiutato questa sera molto gentilmente. Lo ringraziamo, lo salutiamo. Tra l'altro un ristorante ottimo che vi consigliamo assolutamente di frequentare. Io tra l'altro stasera ho incontrato dei turisti e li ho mandati da Tivitti, quindi che sia detta questa cosa qui. Abbiamo fatto un po' di pubblicità anche loro, e quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi in studio i ragazzi che frequentano il primo corso di formazione radiofonica organizzato da CRMP Radio. Sono dei ragazzi, insomma, che hanno il desiderio, la passione di entrare in questo mondo, che è il mondo radiofonico, e quindi stanno frequentando le varie lezioni che riguardano insomma tanti argomenti, dalla musica alle tecniche di speakeraggio. E quindi abbiamo con noi Geraldina, Rosalia, buonasera. Valeria, buonasera, ciao, e Alessandra, insomma, poi anche altri ragazzi, Marco e Agostino, che ci hanno lasciati in questo momento, ma non li salutiamo comunque. Allora ragazzi, volevo parlare, ragazze, perché siete tutte tante donne stasera, in questo momento non dobbiamo parlare al maschile, è la vostra, il vostro momento, parlateci un po' di questa esperienza che state facendo qui a CRMP Radio con questo primo corso di formazione radiofonica. Come sta andando? Vi piace? Vi appassiona? Diciamo che non ci saremmo mai aspettato tutta questa organizzazione, dei maestri così preparati che comunque ci avrebbero spiegato così bene queste tecniche. Comunque stiamo facendo molte tecniche di speakeraggio, tecniche di mixaggio. Poi abbiamo questo bravissimo maestro Filippo, che ringraziamo con un applauso. Troppo gentili, troppo gentili. Rosalia, Geraldina, voi cosa ne pensate? Beh, devo dire, sono molto contenta di prendere parte a questo corso. Pensavo fosse più facile fare la radio, in realtà non lo è per niente. Stiamo imparando tanto, quindi sono soddisfatta e contenta, sì. Bene, Rosalia invece? Grandissima soddisfazione, devo essere sincera, è cominciato a San Valentino, quindi San Valentino ci ha portato pure fortuna. Porta bene, sì. Bene. Sta per terminare, dobbiamo essere sinceri, la cosa è brutta. Allunghiamolo un pochettino. Vabbè, ci lavoreremo. Alessandra, invece tu? Penso che sia un corso veramente stupendo. Oggi abbiamo anche conosciuto questo grandissimo e spettacolare programma che è Rock Revolution. Mamma mia, non lo conoscevamo. L'abbiamo pagata. Però l'abbiamo dal vivo, in diretta, direttamente dallo studio. Ovviamente è tutta un'altra cosa. Bene, vedete che belle voci che ci sono. Chissà che in futuro non potremo ascoltare poi queste voci magari. CRMP Radio, magari con qualche programma particolare. Beh, noi ce l'auguriamo, vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per il vostro corso, per tutto quanto quello che poi sarà il vostro futuro artistico. Avete tanta volontà, tanta passione, quello che ci vuole al giorno d'oggi. La radio è un mondo fantastico, un mondo della quale non si può fare a meno poi una volta che si entra, e quindi ci auguriamo, insomma, che anche voi possiate un giorno entrare in questo mondo e diventare poi chissà colleghi di radio, no? Chi lo può dire? Magari. Speriamo. Valeria questa sera è di poche parole al microfono. Off air ha una parlantina incredibile. Adesso davanti al microfono è quasi muta. Vabbè, comunque ragazzi e ragazze, grazie di tutto quanto. Ci vediamo per la lezione la prossima settimana. Puntuali, mi raccomando, se no vi beccate un impreparato. Va bene, Rock Revolution continua a questo punto. Buona serata ragazze, con un bel classico della musica rock and roll. Loro sono quelli che, insomma, ve l'ho detto tante volte, quelli che si dipingono la faccia di bianco con delle stelline negli occhi nere. È un loro status symbol, non ci possiamo far niente. Insomma, è anche diventato poi uno status symbol anche per molte altre band. Il trucco è... Loro sono i Kiss! Questo è CRMP Radio, Rock Revolution, in diretta anche questo venerdì sera. Buon ascolto, si intitola Dangerous Us. Send me someone to love. Angels, no, they're not what I'm dreaming of. Tell me about your fantasies. You know what I need tonight. Baby, you and me, we're like TNT, like the dynamite. Two parts trouble. sono i Foo Fighters con Learn to Fly. Che bello sentire voci nuove, voci fresche in radio. Beh, ci auguriamo tutti quanti che possano tornare presto con qualche bel programma anche su CRMP Radio. Questi giovani vogliosi di radio. Sempre una cosa bella, no? La radio poi è un mondo particolare, Simone, è un mondo tutto a sé. Che è un mondo... mondo magico, direi io, che comunque ti conquista poco a poco e poi non riesci più a farne a meno. Infatti. Bene, torniamo alle notizie di Rock Revolution questa settimana. Come sapete ci sono tante belle novità. Parliamo di Queen, che ultimamente, chiaramente, ultimamente, insomma, non più in presenza di Freddie Mercury, hanno continuato con Paul Rogers la loro carriera e sono pronti con una nuova compilation con l'aiuto dei Foo Fighters, che abbiamo tra l'altro sentito poco fa. Proprio i Foo Fighters, in particolare Taylor Hawkins, che ha collaborato con Brian May e Roger Taylor nella realizzazione di una raccolta di pezzi dei Queen. Il batterista della band di Dave Grohl è da sempre un grandissimo fan di Freddie Mercury e compagni, e tra l'altro ha già suonato con May e Taylor lo scorso anno in uno show della, in una televisione inglese. Questa raccolta realizzata dai tre si intitolerà Deep Cuts Volume 1 73-76, ovviamente appunto raccoglierà i 14 pezzi selezionati dai primi 5 album dei Queen nell'arco di tempo 1973-1976. Inoltre l'album verrà pubblicato insieme alle edizioni rimasterizzate dai primi 5 dischi della band. Insomma, che bello. Per i fan, per i seguaci dei Queen sarà sicuramente una raccolta imperdibile. Beh, anche per i fan dei Foo Fighters ovviamente, senza dubbio sarà una bella occasione per ascoltare la band in una versione inedita nell'esecuzione musicale dei pezzi dei Queen, che sono comunque dei pezzi storici della musica rock and roll internazionale, che molti amano, perché sappiamo insomma ci sono fan club numerosissimi dei Queen che periodicamente insomma invitano il gruppo alla realizzazione di nuovi brani, nuovi album, anche se con questa nuova presenza di Roger Taylor di Paul Rogers, scusate, che è il cantante sostituito da che sostituisce Freddie Mercury. Però dobbiamo dire anche con un tocco un po' più rock, forse Freddie era un po' più melodico. Infatti ci sono tra l'altro anche tantissime band che cercano un po' di riproporli. Parliamo di tribute band, noi ne abbiamo conosciuta una in particolare, i Bohemian Rhapsody di Trapani, che salutiamo con affetto, che loro sono una tribute band, quindi loro oltre anche a riproporre le canzoni anche cercano un po' di riproporre quello che era il loro stile, anche possiamo dirlo esteticamente, estetico, di palcoscenico. Infatti c'è il cantante dei Bohemian Rhapsody che Rosario è uguale a Freddie Mercury, anche lo gli stessi proprio abiti, indumenti, forse un po' più cicciotto, però poco. Però la voce è veramente bellissima. Infatti va bene, continua la musica su Rock Revolution. Il prossimo pezzo è un grandissimo classico, loro sono i Blink 182, un po' di punk non fa mai male, rock and roll. Mi piace dire così, eh? Si intitola The Rock Show. She's around. Can't wait till the parents go out of town. I fell in love with the girl. One and two, The Rock Show. Che bello sto pezzo, una bella scarica di adrenalina. Rock Revolution anche questo venerdì sera. Ci sta alla grande Blink 182, insomma il punk californiano, gli Offspring, i Ramones e tanti altri gruppi sono sempre ben accetti all'interno di Rock Revolution. Bene, siamo arrivati al momento del sondaggio della settimana, che è un appuntamento che noi settimanalmente proponiamo a voi ascoltatori. Infatti sul nostro sito, Simone, aiutami tu. Sul nostro sito troverete l'opportunità di poter votare, ascoltare prima di tutto e votare su tre brani, il vostro brano preferito, e ovviamente il venerdì noi vi proporremo il brano vincitore, che ovviamente avrà l'opportunità di essere trasmesso in radio per tutta la settimana successiva su CRM Happy Radio. Bene, sigla ufficiale del momento. Il sondaggio della settimana. Bene, sondaggio della settimana, scopriamo quindi qual è la band che vince questo sondaggio. La band vincitrice del sondaggio della settimana è... Dimensione Zero con Un'altra Scia. Benissimo, l'ascoltiamo a Rock Revolution. Complimenti, hanno vinto una settimana di rotation nella nostra emittente, quindi tanti complimenti a Dimensione Zero, che hanno vinto questo sondaggio con un bel po' di voti, tra l'altro, no Simone? Una sì, bella percentuale. Hanno raggiunto l'80% totale dei voti con 83 voti, insomma davvero un bel traguardo, complimenti veramente. Se voi volete anche partecipare, anche voi, insomma, scusate per la ripetizione, partecipare al sondaggio, scriveteci redazione @rockrevolution.it. Adesso Dimensione Zero, Un'altra Scia. Come se fossi ubriaco di te dopo una notte d'inferno. Com'era morbida quella marea, ora ricordo era l'alba. È stato breve giocare con te, forse l'autunno ci aiuterà. E attendo il freddo lontano da te, e una folata di vento, ti lascerò andare via. Ti guarderò e cadere, cadere, cadere su un'altra scia. Ti lascerò andare via. Ti guarderò con te. Penso alle nostre più piccole idee e alla tua notte assordante. Ah, ah, qual è la via? Forse non c'è. E ora ricordo era l'aria. È stato folle scappare con te. Forse qualcosa ci cambierà. Dimensione Zero, Un'altra Scia. Questa è la band che ha vinto questa settimana il sondaggio su rockrevolution.it. Se anche voi avete il piacere di partecipare al nostro sondaggio, visitate il nostro sito internet www.rockrevolution.it e mandateci un'email all'indirizzo di posta elettronica redazione@rockrevolution.it, così che anche voi possiate poi partecipare al sondaggio. In questo caso i Dimensione Zero vincono una settimana di rotation nella nostra emittente, quindi sentirete per una settimana Un'altra Scia dei Dimensione Zero, una cosa bella che insomma noi ogni settimana portiamo avanti da qualche tempo. Adesso salto indietro nel tempo. Questo è un bel salto di almeno una decina di anni. Loro sono i 30 Seconds to Mars. Questo è un pezzo che piace molto, molto al nostro regista Gianni, che ringrazio. Prego, vuoi dire qualcosa? Lo diciamo dopo. Appuntamento di CRMP Radio ogni venerdì sera, la musica, la bella musica inedita, la musica, com'è la musica? La musica ogni venerdì, musica dal vivo! Esattamente, ogni venerdì sera la musica dal vivo su CRMP Radio con Rock Revolution, la musica inedita, vi portiamo insomma a conoscenza di quelle che sono le realtà musicali della nostra bella Sicilia. Questo ci fa un gran piacere. Prossimo pezzo, loro sono i Ghosts, i fantasmi. The world is outside, il mondo è fuori. E anche il nostro regista è un po' fuori stasera, effettivamente. Buon ascolto, questo è Rock Revolution, ultimi 5 minuti. tuo brano in rotation sulla nostra radio. Visita il sito www.rockrevolution.it. Dolce e consenziente. Cerca si apprendista, virtuosa, onesto, imprenditore, garantista. Un'opportunità di ascesa inaudita. Donna giovine e libata, cercasi. Donna usata, già rodata, cercasi. Donna sicula o padana, oriunda clandestina. Vediamo come balli a suon di samba o cia cia cia. A colpo d'occhio sei portata e molto telegenica, ma forse ti interessa più la musica. Cercasi badante, un ottantenne miliardario affascinante. Offre a cagne di strada un'opportunità di vita più agiata. Il giorno prima basta che sia buona. Come paceresti se dovessi fare cinema? Scena prima, ciak motore, azione, poi si gira. O forse ti interessa la politica? Ministro degli affari a luci rosse o di cosmetica? Al giorno d'oggi tra i due sessi non vedi differenza. In quel paese premia chi più merita. Ci sgridano insomma ogni settimana di non mandare tanta musica italiana, quindi questa sera, per farci perdonare, abbiamo mandato il pezzo di Carmen Consoli dal titolo AAA Cercasi, che è anche insomma una cosa che ormai leggiamo tanto sui giornali, di questi annunci un po' particolari. Parliamo Ruby Ruby Ruby Baby. Vabbè, non entriamo nel dettaglio. Allora, volevo salutare le amiche e gli amici del corso di questa bella nostra emittente CRMP Radio, che ha organizzato questo primo corso di formazione radiofonica, e quindi saluto le ragazze, i ragazzi sono andati via, Marco e Agostino, che salutiamo, sono rimaste con noi Rosalia, Valeria e Alessandra. Quindi ragazze, grazie per essere state con noi questa sera. Cosa ve ne, grazie a te. Cosa vi è sembrato insomma questo mondo radiofonico? Spettacolare, un rock. Molto rock, molto moro, molto rock. Valeria, tu? Ma diciamo che pensavo fosse un po' più facile, ma vedendo te diciamo che c'è molto lavoro dietro. C'è molto lavoro. Alessandra, tu invece? È stato veramente molto eccitante, pieno di adrenalina, e ci ha fatto vivere la radio al 100%. Che bello, che bello. Rock and roll, ragazzi, sempre su CRMP Radio ogni venerdì sera dalle 21 a mezzanotte. Con Rock Revolution saluto il nostro caro Simone Brancato, buonasera, grazie. Sì, sì, anch'io sono rimasto molto soddisfatto di questo. Immaginiamo. Grande. Siamo sei tutti molto rock, infatti, la verità è questa. Infatti, salutiamo anche Gianni in regia, ci fai sentire la tua voce ogni tanto, ci fa anche piacere. Ciao ragazzi. Ogni, ogni venerdì musica dal vivo. Salutiamo Ida, grazie, alla prossima settimana. Ciao. Avete appena ascoltato Rock Revolution su CRM Radio.